gente come va. Ci ha insegnato lei la libertà e la vita sua è già una storia. Caro presidente, grazie a sé, piange tra la folla anche per me. Se non ha paura e combatte ancora forte nella sua onestà. Presidente Pertini, questo mondo è un mondo di assassini. Senza volto né nome, frutti amari di una generazione. Presidente Pertini, io le chiedo di tenerci vicini. Ormai senza speranza, noi ragazzi figli della scienza. Siamo ancora in guerra qui in città, si ha sempre paura di morire. Caro presidente, io lo so, quanto freddo c'era in quel metro. Due sirigli al sole nella cattedrale, Sistia non respira più. Presidente Pertini, questo mondo uccide anche i bambini. Ha lasciato Hiroshima e fantasmi bianchi sotto la luna. Presidente Pertini, nel suo cuore gli emigranti lontani. Quanta disperazione per chi lascia i sogni in una stazione. I said.